compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Torino con Giovanna Zucca. Torino. L'Augusta Taurinorum o Taurasia Romana non deriverebbe il nome da toro, ma dato che la zona era abitata dalle popolazioni celtiche liguri, dalla radice celtica Tau, che significa montagna. È il quarto comune italiano per popolazione dopo Roma, Milano e Napoli e costituisce il terzo polo economico del paese. Capitale del Ducato di Savoia dal 1563, del Regno di Sardegna dal 1720 e quindi prima capitale d'Italia, è uno dei maggiori centri universitari, culturali, turistici e scientifici del paese. Sede nel 2006 dei 20esimi Giochi Olimpici Invernali, è la capitale italiana dell'industria dell'automobile, nonché importante centro dell'editoria, delle telecomunicazioni, del cinema, della pubblicità, dell'enogastronomia, del design e dello sport. Allora, uno dei luoghi del cuore. È uno dei luoghi del cuore, credo che sia Torino. Con Torino c'è stato un rapporto di amore interrotto, o meglio, la storia tra me e Torino è una storia d'amore che ha avuto degli alti e dei bassi e poi delle grandissime pacificazioni con delle grandissime esplosioni di passione. Chi mi accompagna oggi è Giovanna Zucca, un'infermiera strumentista con la passione per la filosofia che è appena uscita con il suo primo romanzo. E la passione non è solo per la filosofia, ma anche per la sua città. E le due cose sono legate, come vedremo più avanti. Mi spiego meglio. Ci sono nata e ci sono cresciuta. Durante le superiori la detestavo, perché era difficoltoso prendere il tram, dovevo andare a scuola e c'era lo sciopero e c'era questo e c'era quello. Mi sembrava grigia, Quindi l'ho abbandonata per altre città, come si fa da ragazzi quando si lascia il fidanzatino del cuore per andare in cerca di qualcos'altro di più seducente. Me ne sono andata e ho sviluppato la mia vita da adulta in un'altra città. A metà circa, una decina d'anni fa, quindi sui 30 anni, 35, un po' perché Torino è migliorata. Devo dire che in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006 c'è stato un grande spolvero della città e quindi l'ho vista con altri occhi. Sono andata a vedere il pattinaggio, io sono molto appassionata di pattinaggio su ghiaccio. E l'ho vista con altri occhi, mi era sembrata bella, una piccola Parigi, e mi sono detta, ma dove sono andata? Ma perché? Perché me ne sono andata? I portici, via Po, le montagne che si vede al largo di via Po, in piazza Vittorio, le montagne e la palazzina di Stupiniti. Dicevo, ma mio Dio, come ho potuto pensare di vivere da un'altra parte? E lì, probabilmente, fedele al detto che bisogna stare lontani per apprezzarsi, o come dice Schopenhauer, no? No, non troppo vicini, perché sennò ci pungiamo, ma neanche troppo lontani, perché sennò abbiamo freddo. E lì ho capito quanto io ami questa città. E la amo in una maniera viscerale. Probabilmente non ci potrei vivere sempre. Però proprio perché non ci posso vivere stabilmente, la adoro. La citazione per Schopenhauer calza a pennello. Eppure è un altro, il filosofo che Giovanna porta nel cuore insieme alla sua città. Un altro motivo che mi ha portato, o forse io sono diventata un po' nietzscheana, proprio studiando Nietzsche e capendo l'influenza che Torino ha avuto su quel tipo di psicologia. Allora, il volgo, così il folklore dice che Nietzsche è impazzito a Torino, l'episodio del cavallo frustato. In realtà non è chiarissimo se si è verificato davvero questo episodio. Lì sono andata a cercarmi un po' di notizie su Nietzsche e mi sono imbattuta nelle lettere da Torino. Allora, intanto mi sono andata a cercare la casa dove ha vissuto. Sono andata in via Accademia Albertina, che è una piazza bellissima, e c'è proprio tutta la grandeur sabauda. Allora, uno dei motti torinesi è esagerumanen, cioè non esageriamo. Quindi questi palazzi solidi, eleganti, ma senza fronzoli, senza troppo esagerumanen, appunto. Dove c'è la solidità e l'amore per le cose serie, proprio la grandezza sabauda la chiamo io, non so se si chiama davvero così. Questa bellissima piazza, molto lineare, molto pulita, molto con queste statue equestri nel mezzo. I'm shake, I'm shake, I'm getting down this fantasy, and I'm shake, I'm shake, I'm getting down this, you were not my superman. Vedere Torino attraverso gli occhi di Nietzsche, in compagnia di una sua devota, è emozionante. Sarà che con Giovanna ho in comune lo stesso corso di studi? Sarà che il fascino del filosofo tedesco ha raggiunto anche me nel periodo dell'università? Comunque sia, sono curiosa di scoprire come il capoluogo piemontese si leghi al padre del superuomo. Gli ultimi mesi di lucidità sono stati settembre e i primi giorni del mese di gennaio tra l'88 e l'89. In quei mesi ha scritto Lecce Homo. In quei mesi andava in giro per la città, usciva da via Accademia Albertina, si faceva il giro e io sono andata a vedere la casa, c'è una targa tutt'oggi. Mi sono messa nella prospettiva di cosa potesse vedere lui dalla finestra. Ho guardato la sua finestra, quella che era la sua finestra, e a un certo punto la fantasia, che corre veloce, ha fatto sì che io vedessi una tendina spostarsi e una sagoma affacciarsi. E ho detto, eccolo lì. E lì c'è stata un'emozione, come posso dire, come fai a emozionarti una città? Perché pensi che ci ha vissuto. Pensi, non è solo un assembramento di case, di negozi, di portici, pensi a cos'è stato. E io, pensando che Nietzsche aveva camminato su quei portici, aveva guardato da quella finestra, mi sono messa a guardare cosa poteva vedere lui di fronte. Lui di fronte vedeva una costruzione molto bella che io ho pensato potesse essere il conservatorio. In realtà non è il conservatorio, ma io ho ipotizzato che potesse essere quello. E ho ipotizzato che lui dalla finestra vedeva gli studenti entrare in conservatorio durante le pause di riposo della scrittura pazzesca del Lecce Homo. La fantasia di Giovanna sta rendendo questa visita decisamente intrigante. Mai avrei pensato di avere due compagni di viaggio in un colpo solo e uno della caratura di Nietzsche. E pensavo, durante le pause, quando la signora Fino, lui viveva in questa casa accudito dai coniugi Fino, che erano questi due edicolanti che gli avevano affittato questa camera in questa bella costruzione signorile, sempre esagerumane, di questa palazzina di via Accademia Albertina. E pensavo, magari gli portavano sul tè, e lui durante le pause guardava fuori e vedeva queste persone, questi torinesi, che sembrano apparentemente freddi, distaccati, ma in realtà non lo sono. Vedeva il banchetto della frutta, perché giù dalla sua finestra lui vedeva un banchetto della frutta dove io, alla mia epoca di qualche mese fa, quando sono andata, ho visto che c'era una signora che vendeva l'uva, e io immaginavo, lui magari vedeva, scendeva, sarà andato lì, si sarà comprato un grappolo d'uva. E in effetti, nelle lettere da Torino, lui descrive tutto questo, e io me lo immaginavo percorrere i portici da via Accademia Albertina a Piazza Vittorio e vedere quelle bellissime pasticcerie risorgimentali torinesi. Sveglia male, urla in cucina, fitta alla testa, memoria in rovina, parenti in casa, 5 di sera, tempo scaduto, si alza come ci è venuto, nervi asciugati, metallo in bocca, mette il giaccone già nell'angolo di sotto, al bar biliardi, raduno del grifone, colossi anfibi, tatuaggi di pitone. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Torino con Giovanna Zucca. Siamo in una Torino inedita attraverso le parole di Giovanna Zucca, che con la fantasia si sta facendo accompagnare a sua volta dal suo filosofo preferito, Nietzsche. È qui che lui infatti ha scritto Lecce Homo, ed è qui che Giovanna immagina di muoversi attraverso gli occhi di lui nella città dove lei è nata. Chi va a Torino non può non andare in una di queste caffetterie e pasticcerie. Sono arredate esattamente come nel periodo, come nell'Ottocento. Uno si aspetta di vedere uscire Cavour, non so, o Massimo D'Azeglio, o qualcuno dei Savoia, perché i Savoia vivevano molto dentro la città, non erano un'entità distaccata. Oppure questi grandi intellettuali che hanno fatto un po' grande anche la cultura italiana, perché Torino è stata sempre un'avanguardia. La chiamavano la piccola Parigi, e c'è sempre stato un grande fermento culturale. Poi è andato un po' perdendosi, adesso si sta recuperando. È stata una città di avanguardie, è stata la città della Mole, dove per la prima volta si ipotizza una costruzione che non ha alcuno scopo se non quello di svettare verso il cielo. È bellissima la Mole, non ha altri sensi, A cosa serve? Adesso c'è il Museo del Cinema, però all'epoca, quando Nietzsche ha visto per la prima volta che toglievano le impalcature, ha proprio pensato, secondo me, ma questa è una mia interpretazione personale, eccolo il superuomo, è colui che trascende se stesso e va verso l'alto. Tutta la classe, senza esagerazione, del Torinelli, Antonelli, esagerum manen, una torre, la mole che svetta sopra tutti i palazzi della classicità sabauda, no? Come dire, io svetto in alto con la mia classe e la mia solidità. Come il messaggio è, io Torino svetto e trascendo me stessa e vado sopra. Un po' come il superuomo, secondo me Nietzsche quando l'ha vista ha pensato, è la personificazione del superuomo. Il superuomo che trascende se stesso per superarsi, senza però arricchirsi di fronzoli, di paludamenti inutili, ma proprio per superare se stesso, superare i propri limiti e andare oltre, trascendersi, vedere cosa può, come posso dire, vedere cosa può raggiungere attraverso il ragionamento e attraverso le sue uniche e sole risorse. La passione con la quale la mia compagna di viaggio mi sta raccontando di Torino e del suo legame con Nietzsche è palpabile. La sua voce ne è testimone, ma è il suo viso a dare la maggiore soddisfazione a me che ce l'ho di fronte. Un sorriso sognante che non l'abbandona mai e gli occhi che puntano sempre verso l'alto, come a cercare un contatto con lo spirito del filosofo tedesco. Credo, non ne sono sicura, ma credo che l'inaugurazione della Mole sia avvenuta in un periodo nel quale lui potesse essere presente a Torino. Penso, ipotizzo e voglio credere che uno come Antonelli a Nietzsche sarebbe piaciuto. Probabilmente si saranno anche presentati e probabilmente lui avrà detto, ecco, Monsieur Antonelli, ingegnere Antonelli, questo è esattamente in forma architettonica quello che io voglio dire in forma filosofica. E Antonelli risponde, ma Monsieur Nietzsche, esagerum manen, io ho voluto solo costruire qualcosa di più alto degli altri palazzi. Volevo solo costruire qualcosa che rimanesse, che si vedesse da lontano. Quando uno arriva a Torino vede la Mole. Fa, sì, ma in questo modo lei comunque ha reso architettura, reso forma, quello che io ho ipotizzato in forma teoretica. E Antonelli, un po' scuotendo la testa da bravo torinese, di quelli, cioè, ah sì, professor, monsieur professor, sarà così, ma io tutte queste cose non le avevo mica pensate, sa, esagerò, ma neanche, io ho costruito soltanto. Nietzsche che dice, boh, Nietzsche che dice, boh, il dialogo tra Nietzsche e Antonelli proprio non me l'aspettavo e nemmeno la Mole come personificazione del superuomo era prevista. Come detto all'inizio, questa è una Torino davvero inedita. Ecco, io quando sono a Torino penso a tutto questo e non posso non pensare alle lettere da Torino quando leggo la lettera nella quale Nietzsche descrive a sua madre la prima volta che ha bevuto il Bicerin. Lo ha descritto come neanche io non potrei. E dice, è una bevanda che è tipo caffè, ma che fa bene, fa molto bene allo spirito. È una bevanda che è una specie di nettare degli dèi. È giusta per questa città subalpina, dove l'aria è frizzante, dove si vedono le montagne, non sono troppo vicine per darci freddo, ma non sono neanche lontane. C'è questo fiume che scorre in mezzo, le rive dei murazzi. C'è questa solidità, questa calma, apparente calma, perché poi è piena di fermento, è piena di secondo me di umori vivi, questi portici dove sono passate persone straordinarie, questi paesaggi, ma persino nella nebbia bella. Nietzsche col Bicerin in man è proprio un bello spettacolo. Torino è sempre più sorprendente e, come sta per raccontarmi la mia accompagnatrice, anche rassicurante. Poi, quando esplode la primavera, ancora più bella. Ci sono questi grandi viali, è quadrata, non so come dire, è rassicurante. Uno a Torino non si perde. Io che non ho minimamente il senso dell'orientamento, mi perdo dovunque, anche nelle città piccoline. A Torino no, perché è una città rassicurante. Ci sono questi portici meravigliosi, questi i negozi, queste... Ma i negozi. due parole sui negozi. La maggior parte dei negozi del centro storico hanno esattamente la struttura che avevano 100, 200, 300 anni fa, con quelle porte, finestre, vetrine intagliate nel legno. E si vede in alto, tipo, non so, Barbisio, non so se posso dire, ma Barbisio Cappelli, dal 1812. Wow, uno vede questa cosa e si rassicura. Dice, mamma mia, non può succedere nulla in questa città se c'è Barbisio dal 1812. Non so come dirti, come se ci fosse qualcosa di immutabile che in tutto questo divenire continuo, dove cambia tutto, rimane. Uno va a Torino, entra, che ne so, in un qualunque caffè sotto qualunque portico e trova il Bicerin, trova questi dolci meravigliosi, le vignole, i gianduiotti, questa cortesia tipica piemontese, no? Che molti scambiano per cortesia, no, riservatezza, molti scambiano per distanza, per distacco. In realtà è una riservatezza che io col tempo ho imparato ad apprezzare. Solo in una città dove il passato convive col futuro si poteva passeggiare tra le sue strade e i suoi negozi con Giovanna Zucca e Nietzsche allo stesso tempo. Io spero che queste mie parole riescano a trasferire in qualche maniera quello che voglio dire rispetto a questa città, ma non so, mio Dio, è proprio è emozionante, non so come dire. Uno è una città antica e moderna nello stesso tempo. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Torino con Giovanna Zucca. Un'infermiera strumentista col pallino della filosofia alle prese con la visita della sua città natale, Torino. E con lei, meglio con noi, anche il suo filosofo preferito, Nietzsche. Ebbene sì. Vedere la città sabauda con gli occhi di un uomo del passato filtrati dalla passione di una ragazza di oggi alla sua prima esperienza come scrittrice sta dando delle belle soddisfazioni. Lei è Giovanna Zucca e nella sua voce, nel suo modo di raccontare, nei suoi wow come intercalare, c'è tutta l'emozione di questo viaggio. Se si va, dicevo prima, dell'amore, io a parte la filosofia sono innamorata del cinema, ma uno che ama il cinema non può non andare a vedere il Museo del Cinema dell'Amore Antonelliano. Perché fa, come dire, ha un impatto estetico pazzesco, perché da una parte c'è questa struttura bellissima, dall'altra c'è tutta la storia del cinema e il museo dei costumi del cinema. Io ho potuto vedere all'interno della mole i vestiti originali del Gattopardo di Visconti, per esempio, toccarli, wow, una cosa meravigliosa, oppure il film Senso di Visconti, dove c'erano questi vestiti larghi, una città che mi dà le stesse emozioni, un po' meno, è Venezia, perché anche quando cammino per Venezia penso a tutti coloro i quali sono passati prima di me. A Torino devo dire di più, però, e quindi è sempre una gioia andarci, e quando manco per qualche mese poi sento la necessità di tornare, e sento la necessità di entrare e di sentirmi dire Cerea Madamin. Ah, Cerea Madamin è una cosa wow, mi sembra di tornare indietro nel tempo, ma nello stesso tempo di essere immersa nel mio presente, non so se mi spiego. Sembra una contraddizione, ma non lo è. Mi sembra di essere nell'Ottocento, però mi sembra di essere anche nella mia epoca contemporanea, dove vivo la mia realtà attuale. E cosa vorrà mai dire l'espressione così musicale Cerea Madamin? Giovanna mi viene in soccorso, anche se con un po' di fantasia ci sarei potuta arrivare da sola. Buonasera, signorinetta. Questa inflessione che forse per la vicinanza alla Val d'Aosta ricorda qualcosa dei francesi, infatti il torinese stretto è un po' imparentato col francese, e credo che l'aristocrazia vera torinese è quella dei negozi storici, è quella dei negozi, sono proprio aristocratici, cioè, anche se sono passate le generazioni, se ci sono queste caffetterie, oppure questi negozi molto antichi di abbigliamento, per esempio, no? Sono storici, sono lì da decenni, da 50, 100 anni, ma è bellissimo anche solo guardarli, perché personalmente su alcuni negozi non potrei comprare niente, perché hanno degli standard che non potrei permettermi, ma sono belli da guardare. Non so, c'è un negozio di stoffe a Torino che è famoso perché drappeggiano le stoffe in maniera tale che non ci si accorge che sono stoffe. E loro lo hanno sempre avuto questa cosa, si chiama Galtrucco. Uno guarda le sue vetrine e ci sono tutte queste stoffe drappeggiate in maniera tale che nessuno si accorge che sono stoffe. Si pensa che siano abiti, e sono abiti da sera, abiti da sposa, abiti. In realtà sono stoffe. E loro, io ero piccolina, ero una ragazzina, e quando si andava a Torino alla festa di San Giovanni io volevo sempre passare da là, perché non ci credevo nemmeno io che erano solo drappeggiate. Ho visto un film, era ieri, ho pensato a te. A Torino passeggiavamo tra i negozi del centro, tu mi hai detto. Ho passato 20 anni ignorando di avere un corpo. Poi è stato come se un'auto entrasse a 180 all'ora dentro una di queste vetrine. Oppure, cosa posso dire? I fuochi d'artificio in Piazza Vittorio, la festa di San Giovanni Battista, che è il patrono di Torino. È una cosa pazzesca, perché si è in questa piazza enorme, di fronte ci sono le montagne e là fanno i fuochi. È una cosa di una grandezza straordinaria. Le zone nuove, per esempio, c'era una zona di Torino che non mi piaceva fino a qualche anno fa, che adesso è stata riqualificatissima, che è il Quadrilatero Romano, la vecchia Porta Palazzo. Porta Palazzo c'è ancora col suo mercato pieno di colori, di gusti, di negozi. Ci vivono moltissimi immigrati che si sono inseriti, quindi c'è la comunità marocchina, la comunità macedone, è molto variopinto. Più a fianco c'è una zona dove fino a qualche tempo fa era lasciata un po' andare. C'erano queste case di ringhiera, un po' fatiscenti, un po'. È stata assolutamente riqualificata, è diventata una delle zone più belle di Torino, con tutta la movida nuova, quindi questi locali molto alla moda, queste vinerie, le vinerie, i vini! Certo, i vini! Siamo arrivati all'appuntamento col gusto. Ma vogliamo parlare del mangiare? Ma avete presente cosa sono i bolliti torinesi? Andate, dovete andare, i bolliti torinesi, il carrello dei bolliti, con tutti i vini, la bonarda, sto saltando di palo in frasca, ma sono talmente tante le cose da dire, che ho pensato persino di scriverci un romanzo. La cosa che ho detto prima su Nietzsche, allora, di Nietzsche mi affascina molto il tipo di scrittura molto seducente. Nietzsche è un abisso, e se lo si guarda troppo a lungo, lui stesso sosteneva che se guardi troppo a lungo l'abisso, dopo un po' ti accorgi che è l'abisso che sta guardando te. E quindi per me è un abisso, e mi accorgo che se mi ci soffermo troppo, nello Zarathustra, nell'Ecce Homo, nella Gaia Scienza, dopo un po' mi lascio sedurre eccessivamente, perché è un tipo di scrittura seducentissima. È stato anche molto manipolato, e quindi io parlo del Nietzsche, quello vero, quello originale, quello non manipolato. È quello che si può trovare leggendo gli scritti, i suoi, gli scritti originali. E sono assolutamente sedotta, in particolare sono sedotta da questa sua permanenza di Torino. In una delle lettere da Torino, Nietzsche definisce la cucina torinese coscienziosa, accurata e perfino raffinata, e aggiunge: finora ignoravo cosa fosse un buon appetito. Che bella l'Italia e il suo cibo! Abbiamo fatto venire fame anche al filosofo del superuomo. Quando ti dicevo prima che mi era sembrato di scorgerlo dalla finestrella, questo baffo così imponente, quasi a voler sottolineare una afasia vocale, perché tutto quello che lui doveva dire lo diceva nella scrittura. Aveva questi baffi enormi, come a sottolineare: la bocca non mi serve, la copro, perché tanto quello che io devo dire lo scrivo, ed è tutto nei miei scritti. Questa sagoma che io intravedevo da lontano ha dato uno start pazzesco alla mia creatività, per cui mi sono immaginata, quando ti dicevo prima che secondo me di fronte alla sua finestra vedeva un conservatorio, perché da lì a immaginare cosa potesse vedere gli studenti che entravano in conservatorio, e da lì immaginare una studentessa di conservatorio che si porta presso la viola e ogni giorno lui la vede, e ogni giorno di mattina aspetta che lei entri, e a una determinata ora aspetta che lei esca dalla finestra, e vede questa figuretta sottile con questa viola al braccio, fino a che un dato momento decide di scendere giù per andare a incontrarla, attraversa la piazza e la va a incontrare. Ecco, tutto da lì a costruirci un romanzo e niente, questa è pura fantasia. Io non lo so cosa vedesse lui dalla finestra, me lo sono immaginato io. Però vedi cosa ti può fare una città. Per tutto il tempo che ci è sempre stato negato, che per averlo abbiamo spesso rapinato, per le mie dita nella tua bocca, per la tua saliva, per le tue mani, per il mio tempo che nei tuoi occhi imprigionato, per l'innocenza che cade sempre solo là. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Torino con Giovanna Zucca. Giovanna Zucca, per farci vedere la sua città, Torino, ha deciso di farsi fare da spalla niente meno che da Nietzsche. Lo siamo andati a prendere nella sua casa in Piazza Albertina e lo abbiamo seguito sotto i portici, nei negozi, perfino in una pasticceria dove si è fatto fare un bicerino. L'immaginazione della mia compagna di viaggio, che non smette di stupirmi con questa prospettiva tra passato e presente, attinge comunque dalla realtà. Il filosofo tedesco, infatti, è proprio a Torino che ha scritto Lecce Homo e da quei mesi di permanenza nel capoluogo piemontese, Giovanna trae ispirazione per inventarsi una storia verosimile e intanto ci porta con sé. Cioè lui attraversa i giardini di Piazza Accademia Albertina per arrivare lì e sa che alle 8 meno 10 lei arriva. La vede un giorno, 2, 3, 4, 5, 7, al settimo le chiede se può portare lui la viola, perché è abbastanza pesante come strumento, e si mettono a parlare. La settimana successiva la invita a bere il bicerino in una delle pasticcerie lì sotto e poi cominciano a chiacchierare. Lei gli dice che abita in Via Lagrange, allora lui le chiede il permesso di poterla accompagnare fino a Via Lagrange, e da lì a immaginare una storia d'amore folle, di passione con questa violista, il passo è breve, ma è tutto nato una domenica pomeriggio che io stavo lì assorta a guardare quella finestra timorosa che i torinesi che passavano mi dicevano: ma questa lì 2 ore sotto sta finestra cosa sta guardando, capito? Ma ero lì imbacchettata, non mi riuscivo a muovere perché mi passava davanti tutto il film. E lo scriverò, penso che lo scriverò, perché l'ho visto, vedevo lui che cammina, lui che va dal sarto, lui che va da un sarto torinese a farsi fare un cappotto e vede la maestria di questi artigiani torinesi che sono bravissimi nel confezionare le cose molto classiche, molto solide, ecco, molto solide. I torinesi sono solidi proprio. E scrive a sua madre che si è fatto confezionare questo cappotto che è elegantissimo, gli sta molto bene, e io me lo vedo passare con questo cappotto di velluto con i profili neri, tagliato perfettamente, e va a fare le prove da questo sarto che lo chiama Monsunice. Monsunice, prendiamo le misure, né? È lui che parlicchia qualcosina di italiano, perché un pochettino lo parla l'italiano, e scrive entusiasta sua madre, i suoi amici a Basilea, a Lipsia, il suo editore, e dice: ma io da qua non mi muovo più, io voglio vivere qui perché qua sto bene. E anche a me sembra d'averlo visto Monsunice nel suo nuovo cappotto e con una bella cera. Tra l'altro lui, che era afflitto da problemi di salute perenni, vagava da un paese all'altro nell'Engadina piuttosto che in Costa Azzurra in cerca di un clima a lui favorevole, aveva trovato a Torino proprio un luogo che gli si confaceva dal punto di vista salutistico, perché sosteneva che c'era un'aria molto frizzantina. In realtà io credo che fosse una cosa psicologica, nel senso che siccome lì aveva avuto la percezione di scrivere molto bene, allora ovviamente quando un filosofo di quel tipo, un intellettuale di quel tipo, si rende conto di essere al meglio dal punto di vista della creatività, ritiene che sia il mondo circostante che lo stimola. Probabilmente sarebbe riuscito a scrivere Lecce Homo dovunque, però forse anche no, però forse anche no. Quindi una cosa che mi piacerebbe fare è proprio questa, scrivere questa cosa qua. Olè! Conoscete Porfirio Villarota dalla bocca fascinosa? Lo credevano spagnolo, portoghese, egli è invece torinese. Era un rude, modesto terrazziere, sapeva il suo mestiere, era un piacere. Ora invece Portirio, Villa Rosa, todo el giorno se reposa. Ogni diva dello schermo che lo vede dice t'amo e lui ci crede. E così per salvarsi un po' le spese lui deve divorziare tre volte al mese. Dopo tutte queste istantanee insieme a Nietzsche da mettere nel nostro album dei ricordi, faccio a Giovanna la classica domanda sui sensi e in particolare sull'olfatto. L'odore di un luogo è una delle cose che più mi affascina, anche perché quello che viene in mente non è mai un odore reale, spesso è qualcosa che pesca nel fondo dell'anima, e la risposta di Giovanna ne è l'ennesima conferma. L'odore di Torino è di erba bagnata. Erba bagnata ed è di caffè e di torrefazione. Quando tu passeggi per Torino hai, almeno io ho questa sensazione che si alterna. Sai il caffè quando lo tostano? Che ha quel bruciacchiatino, ma neanche tanto, è proprio il caffè bruciacchiato, che è la tostatura, e poi di erba bagnata. Non lo so perché di erba bagnata, ma mi ha sempre fatto pensare a questo. Erba bagnata, e molti dicono che sa di smog, io veramente non ho mai sentito l'odore dello smog. Probabilmente è così perché è una conca, quindi probabilmente ci saranno le polveri, non lo so, le polveri, questo. Però io non l'ho mai sentito l'odore dello smog, io ho sempre sentito l'odore di erba bagnata e di caffè. Di caffè della torrefazione e di queste pasticcerie che quando entri sono una cosa meravigliosa. Pensa che le vignole, che sono i vigneri di Torino, sono piccolissime, sono perfette, sono esteticamente dei capolavori. E io ero abituata a quelle. Quando sono i primi periodi qua dove vivo adesso, andavo in cerca di pasticcini. Sono andata in una pasticceria e ho chiesto, mi dà delle vignole, intanto mi hanno guardato, poi hanno capito che intendevo dei vignè e mi hanno dato una cosa enorme. Io abituata alle vignoline nostre, i vignè, le vignole proprio, e dicevo, ma no, ma questa cos'è? Ma delle pastone enormi, gigantissime, e dicevo, ma no, ma questi non sono i mignon, sì, queste sono le nostre paste, mamma mia, sembravano torte. E ho detto, ma qua devo riabituarmi perché siamo da un'altra parte. Per dirti, cioè, tu prendi un vassoietto di vignole e c'è tutto, tutti i colori, tutti i gusti, tutti i sapori, gli scianti, cioè una cosa meravigliosa. E ne bastano cinque, una rosa, una al cacao, una alla vaniglia, wow, e il caffè di Torino è buono dappertutto. In qualunque luogo uno va a Torino, il caffè è buono, proprio è un caffè speciale. E con un buon caffè in mano ci salutiamo con l'ennesimo buon motivo per visitare Torino. Risorgimento italiano è un momento grandissimo della nostra storia, e forse vale la pena di andare a vedere i luoghi del Risorgimento, dove Cavour veramente è stato col primo Parlamento e dove, quando andava a mangiare al ristorante del Cambio di fronte al Parlamento, il suo segretario, per chiamarlo, gli sventolava il fazzoletto bianco. Lui era seduto al ristorante e il suo segretario, quando aveva necessità, dalla finestra sventolava un fazzoletto bianco e lui sapeva che doveva ritornare. Questi personaggi della nostra storia, che comunque è una storia che ci appartiene, noi siamo figli di quel periodo lì, poi dopo è stata la prima capitale d'Italia, e poi andate a vedere perché si chiama Piccola Parigi, magari tutti vanno a Parigi e nessuno sa che c'è Torino, che è una piccola Parigi, che non ha niente da invidiare alla Ville Lumière, se non le dimensioni. Ora Giovanna Zucca in libreria con Mani Calde, Fazzi Editore. Grande coro di persone, Torino vuol dire Napoli che va in montagna, Torino è un dirigibile verso la Spagna.